Mauro nel 43 aveva 13 anni e la sua vita era fatta soltanto di drammi. Suo fratello di anni ne aveva 16 ed era nei gap, stava sull'Appennino mentre Mauro scappava quando gli aerei passavano bassi e lanciavano bombe, quando i tedeschi arrivavano in casa e portavano via le mamme tornavano in lacrime, a volte non tornavano più e per loro non c'era neanche una lapide. Per vivere Mauro spigolava e contrabbandava farina, un giorno ne regalò un sacchetto a una ragazza carina e in un tempo in cui si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, quella donna diventa sua moglie, finisce anche la guerra, il suo momento, entra nel movimento, un mondo nuovo da costruire, c'è un gran fermento, giornali in tasca, riunioni in fabbrica, il voto per la Repubblica, nuova era, questo si comunica. E allora balliamo questa mazurca, dimentichiamoci del dolore, delle urla, resisti amore mio, vedrai che ce la faremo, noi siamo il futuro, è finito il momento, vieni qui stringimi. Nel 50 Mauro nasce un figlio, Walter, in un clima che si distende si può iniziare a spendere, Walter cresce in un mondo diverso, gli anni 60 sono a un centimetro dall'universo, ma per Mauro tutto va all'inverso, per lui il figlio è uno smidollato che sa spendere ciò per cui lui ha sudato, ciò che lui gli ha donato, a Walter il padre sembra già da ricovero, fermo all'epoca in cui era ancora povero. Quindi decide che non sarà un miserabile come suo papà, vuole studiare, andare all'università, i tempi sono cambiati, la guerra è finita, c'è spazio per i problemi sulla filosofia e la diversità, gioventù agguerrita ma i parenti di quei ragazzi, con gli incubi ancora vivi, pensano che siano dei pazzi, così Walter lascia casa dei suoi, centri sociali, comuni. Una sera incontra Naomi, figlia di due francesi in cerca di emozioni, è partita zaino in spalla da sola per tutta Europa e tra una canna e un sit-in Walter se la scopa, il mondo siamo noi, meglio non dormirci sopra. E allora balliamo questo rock, noi siamo il futuro, la generazione dello shock, buttiamo giù quel muro, cambiamo questo mondo, diamogli un nuovo senso prima che vada a fondo, scappiamo da qui. La vita è ciò che crei, pensa ridendo, ed è così ma in altro senso, perché dentro Naomi sta crescendo una nuova creatura, figlia dell'apertura, della fine della censura, ora anche lui come suo padre ha paura, giura che non sarà un padre ottuso come il suo, chiuso nel suo ricordo, vivo ma sembra morto. Naomi lascia lo zaino dove l'aveva appoggiato e va con Walter, sente che il suo destino le è stato rubato dall'irruenza, dall'inesperienza, da un bel italiano che le ha allungato una bella lenza. Nel 71 nasce Marco, i suoi genitori sono due ragazzi e sono già partiti gli scazzi. Naomi va in depressione a metà tra sogni e doveri, vive male nell'oggi senza domani pensando a ieri. Walter è sempre al lavoro, la sera a casa è troppo stanco, a pezzi come suo padre, non pensa né lei né a Marco. Pochi anni prima era passata la legge sul divorzio, loro la usano subito facendo di un diritto un torto. Marco resta col padre e la madre che torna in Francia, Marco che cresce con il rancore che se lo mangia. E allora cosa balliamo adesso? Andiamo in disco, pesta la cassa a palla finché non mi stordisco. Il futuro non esiste, è già qualcosa, se domani avrò un lavoro ad una casa. Fanculo, va. Marco viene su da solo, non può certo contare sui suoi genitori che si sono fatti fuori da soli. Ha la sua casa, il suo lavoro, una vita tranquilla e questo gli sembra già un dono. Ma non ha sogni, non ha un amore e non lo vuole, si accontenta di ciò che passa sotto le sue suole. E nel 90 non c'è più tanto da stare allegri, dati da fare, in culo al mondo, inutile che preghi. Pensa a suo padre, abbattuto in volo, seguendo un sogno, meglio tenere i piedi a terra e stare dove sono. Un pasto, pochi amici e qualche ora di sonno, e ogni tanto la domenica va a trovare suo nonno. C'è un uomo che suo padre ha rifiutato, come del resto lui il suo, ha osservato il futuro diventare passato. Vieni figliolo, siediti qui vicino. E si misero a parlare davanti un bicchiere di vino. Negli anni la musica cambia e anche i ballerini, ma da sempre tutti cerchiamo lo stesso ritmo. Ognuno ascolta solo i suoni del proprio tempo, ma ignora quel segreto che dentro di noi è scritto. Ascolta la mazurka e il rock, ascolta tutto, vedrai un giovane pieno di speranza. Sei sempre tu, vedi, tuo padre mi odia e l'ho odiato anch'io, come se non fossimo entrambi figli di Dio. Tenuti distanti, ognuno pensando ai suoi drammi, così gli istanti sono diventati anni. Incolmabili, imprendibili, persi per sempre nei sentieri della mente, oggi siamo come stranieri. Marco, ognuno vive nel suo tempo, ma il tempo dell'uomo uno solo. Rompi la catena d'odio, prova a sciogliere quel nodo. La storia ci trascina inermi con la corrente, e noi che siamo la storia, anche non facendo niente, cambia per davvero. Prendi in mano la tua vita, ora che la mia è quasi finita. Balliamo.